Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. RSD 102.2, buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking, un nuovo libro che verrà presentato questa sera. Si tratta di Le guerre non finiscono mai, 12 interviste a testimoni di guerra, uscito per Società di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino, a cura di Marco Chiarelli, Tommaso Saggiorato, Eleonora Stabile e Paola Trevisan. Tre di questo poker sono qui con noi questa sera, li ringrazio e li saluto innanzitutto, un benvenuto quindi a Marco, Eleonora e Paola, buonasera. Buonasera. Che meraviglia, un coretto, ricorda i neri per caso dei tempi d'oro. Iniziamo allora a parlare di questo Le guerre non finiscono mai. Che cos'è questo progetto, come nasce? Questo progetto nasce in seguito ad un corso di storia orale che tutti noi quattro curatori del volume abbiamo seguito all'Università presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Il titolo del corso che abbiamo seguito era appunto Le guerre non finiscono mai, un corso tenuto dal professor Alessandro Casellato, obiettivo finale del corso era di realizzare un'intervista ad un testimone di guerra. Infatti sappiamo che le guerre contemporanee sono i momenti in cui fondamentalmente il pubblico e il privato si sono maggiormente intrecciati nel corso dell'esistenza degli uomini. La guerra appunto trasforma sia lo spazio esteriore all'uomo sia lo spazio interiore. Non vi sono più differenze tra uomini e donne, adulti o bambini, o tra appunto il fronte e le retrovie. E le guerre di solito cominciano ben prima di essere dichiarate e si concludono ben dopo la firma dei trattati di pace. Ecco perché le guerre non finiscono mai, perché la memoria di guerra si ripercuote anche nelle successive esistenze di chi ha vissuto e vi ha partecipato. Noi tutti partecipanti al corso abbiamo quindi realizzato queste interviste come prova finale. interviste ad un testimone di guerra. Vi è stata una grossissima libertà nella scelta. Infatti, nel corso, appunto, nel volume sono raccolte interviste sia a soldati sia a civili della seconda guerra mondiale, o anche appunto a ci sono due interviste con due testimoni che hanno vissuto il conflitto jugoslavo. È un volume molto eterogeneo, appunto perché il tema è eterogeneo, il tema della guerra, e noi vogliamo insomma, offriamo un nostro tentativo, insomma, di affrontare la guerra utilizzando le storie, le fonti orali. Bene, grazie per questa introduzione, è stata bellissima. Adesso parliamo invece della struttura. Ci dicevate, voi siete i quattro curatori dell'opera e si raccolgono invece i contributi di una serie di autori. Come sono stati scelti i lavori? C'è stato un lavoro per rendere omogenei i vari contributi? Come si è un po' svolta la parte più organizzativa del lavoro, in qualche modo? Beh, questo libro possiamo dire che non è nato principalmente come scopo del corso, ma è stata un'opportunità che si è realizzata anche per la bellezza e la particolarità del materiale che è venuto fuori dalle interviste che ogni singolo studente ha fatto a familiari o a conoscenti. E il libro quindi è nato come opportunità, è stato supportato tramite fondi principalmente dalla Società di Mutuo Soccorso De Martino, ma anche dal ex Dipartimento di Storia di Ca' Foscari. È strutturato seguendo il tema, che era sostanzialmente anche il tema del corso, cioè la guerra, e è stato strutturato a seconda della tematica che veniva affrontata nelle interviste. Le interviste sono varie e riguardano, come diceva in precedenza Paola, a bambini, ma anche, e quindi persone della popolazione civile molto, molto piccole anche all'epoca dei fatti, ma anche a militari che hanno vissuto proprio sulla propria pelle l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo cercato, in collaborazione anche con gli autori delle 12 interviste, tra cui i quattro curatori, siamo anche quattro autori di quattro interviste contenute nel volume, di riunirle sotto questa unica tematica, la guerra. E infatti la guerra è un po' un argomento talmente vasto da essere contenuto all'interno di un libro e anche prefigurato entro certi schemi. E come dicevo prima, la bellezza di queste interviste è che anche persone, quindi bambine, hanno vissuto e mantenuto nei loro ricordi anche i fatti buffi che sono successi durante praticamente l'ultima guerra. E ci sono episodi che riguardano appunto dei bambini che sono stati vittime inconsapevoli di retate dei soldati tedeschi o bambini che proprio inconsciamente hanno dovuto supportare quei tempi non semplici e quindi formarsi prima di quello che di solito praticamente le nostre generazioni possono avere, un'adolescenza tranquilla. E riguardo invece possiamo dire che il libro è concepito in tre parti, l'ultima è quella più recente e riguarda due esperienze molto diverse di guerra in Kosovo e in Bosnia Erzegovina. Una riguarda un operatore medico e quindi è molto, molto diversa da quello che può essere un'esperienza militare. E la seconda invece è di un giovane di religione islamica che aveva praticamente dovuto fuggire in seguito al cambiamento appunto di regime che c'è stato in Bosnia, e tramite varie peripezie è riuscito a salvarsi lui e la sua famiglia anche praticamente andando contro quelle che erano i valori e le persone che lui aveva sempre conosciuto. Infatti in Bosnia e Erzegovina c'è stata proprio una guerra civile. Benissimo, prima di andare a esplorare ulteriormente questo Le guerre non finiscono mai, a cura di Marco, Eleonora, Paolo e Tommaso, che sono qui questa sera con noi e ci stanno illustrando in maniera più che doviziosa il contenuto appunto di questo testo, andiamo con un brevissimo intermezzo musicale, poi ci ritroviamo sempre sui 102.2 di RSD. Eccoci ritrovati sempre sui 102.2 di RSD, St. James Infirmary che ci accompagna con il suo jazz lento lento verso la conoscenza ulteriore di questo Le guerre non finiscono mai. Allora, si parlava della metodologia di raccolta dei dati che è peculiare e un po', diciamo, atipica rispetto alla storiografia come la maggior parte di noi la intende, ossia un grosso lavoro di archivio, un grosso sfogliarsi grossi volumi in biblioteca, un po' polvere qua e là. Invece qui l'approccio alla ricerca è molto diverso. Cosa avete fatto in questo corso e come poi avete raccolto i dati che poi sono contenuti in questa testimonianza? Beh, come dici tu, l'approccio appunto è fondamentalmente diverso, tanto che molti sono anche indecisi se considerare la storia orale come parte della storiografia ufficiale, fondamentalmente. Quello che a tutti, insomma, preme sottolineare è che grazie appunto alla storia orale, quindi alla raccolta di testimonianze, sia appunto attraverso delle interviste con dei testimoni, ma anche testimonianze orali, come per esempio possono essere le canzoni, è interessante come gli avvenimenti siano raccontati, narrati dal basso, non appunto come succedeva o succede, insomma, per moltissimi documenti ufficiali dai grandi generali o dai capitani d'armata. E infatti è questo il dibattito che è attualmente sulla scena, se la storia orale possa veramente aiutare a approfondire, insomma, la conoscenza degli eventi storici. Chiaramente secondo noi sì. Basti pensare anche al grandissimo impulso che ha dato Nuto Revelli con la sua raccolta di testimonianze sulla guerra, sulla ritirata di Russia degli alpini, insomma, della sua zona. Revelli opera nella zona di Cuneo. E noi fondamentalmente nel realizzare le nostre interviste ci siamo anche ispirati a lui, al suo metodo. La cosa fondamentale chiaramente durante l'intervista è il rapporto che si instaura tra l'intervistato e l'intervistatore, e è un rapporto anche, insomma, di potenza l'intervistatore deve cercare in qualche modo, non dico di orientare l'intervista, però chiaramente deve cercare di selezionare nel corso della trascrizione dell'intervista quello che a lui maggiormente può interessare. E infatti possiamo vedere che un'intervista non sarà mai uguale se lo stesso intervistatore viene appunto intervistato da due persone differenti. La difficoltà, credo, maggiore per chi si occupa di storia orale è proprio nello trascrivere l'intervista. Ecco, una nota metodologica a questo riguardo. Cosa si sceglie per trattare argomenti di questa gravità come possono essere le memorie sulla guerra? Ossia, si preferisce registrare o con, non lo so, un registratore tutto quello che l'intervistato ci dice, o si preferisce prendere appunti? Perché immagino ci sia un diverso rapporto che si può instaurare tra intervistato e intervistatore a seconda se il mezzo che, diciamo, funge da intermediario nel racconto è un qualcosa che si ricorderà di tutto quello che l'intervistato dice oppure no. Allora, questo era un problema che persino Revelli si era posto all'inizio della sua carriera di storico, e diciamo che inizialmente lui appunto si proponeva di andare semplicemente con un taccuino per mettere meno in soggezione possibile quello che sarebbe stato il suo intervistato. Il problema qual è stato? Che anche lui si è reso conto che in realtà, dal momento in cui tu inizi a narrare e ti fidi della persona a cui tu stai narrando, più che ci sia un quaderno o un registratore, comunque un filtro. E quindi tanto vale utilizzare il filtro che a me rende la vita più agevole. Quindi, dal momento in cui adesso abbiamo dei registratori o dei videoregistratori anche, delle videocamere, è bene utilizzare questo. L'idea è sempre quella di registrare tutto il possibile. E poi, una volta registrato, tornando, diciamo, nel proprio studio, nel proprio ambiente di lavoro, selezionare magari le parti che a noi come storici sono utili. Questo è il lavoro più difficile e più importante. La fonte rimane comunque quella registrata, quella è l'originale, ma quella che poi è la trascrizione che finirà su un volume, su un documentario, avrà un altro utilizzo, quella rimaneggiata in prima persona dallo storico. Quindi lo storico opera delle scelte. Ecco, e voi nella stesura di quest'opera come vi siete regolati proprio per affrontare questo tipo di scelte? C'era un protocollo definito? La scelta era molto libera. Anzitutto, noi avendo fatto solo da curatori, ognuno di noi come intervistatore aveva la responsabilità sulla propria fonte, sul proprio intervistato. Generalmente abbiamo mantenuto sempre le domande e le risposte in modo da continuare a legare il filo dell'intervista stessa, perché volendo uno può anche scegliere di omettere, però qua si aprono altri problemi metodologici. Le cose più difficoltose a livello di scelte reali sono state ad esempio le parti in dialetto. Le parti in dialetto in effetti potrebbero creare dei problemi a chi quel dialetto non lo comprende, allora si è sempre preferito tradurle o con note o proprio a pagina piena, nel caso in cui l'intervista era completamente in dialetto, in lingua italiana. Ovviamente viene snaturalizzata, però dà una fruizione tutti, insomma. Amplia il bacino d'utenza in qualche modo. Sì. E poi per quanto invece riguarda gli intervistati, avete notato approcci diversi a seconda, ad esempio, di caratteristiche demografiche, sesso, piuttosto che età al momento dei fatti, piuttosto che ancora, non so, diverso coinvolgimento nei fatti stessi? Anzitutto vi è una grossa differenza di genere tra uomini e donne sull'essere stati o meno parte attiva nella guerra. Solitamente le donne hanno sempre avuto il ruolo di civili. E quelle intervistate sono, mi pare, per la maggior parte bambine. E quindi hanno memorie poco sedimentate, poco narrate, abituate poco a essere esplicitate. Per quanto riguarda invece memorie partigiane o persone che hanno combattuto la resistenza, lì c'è il problema opposto. La memoria è stata talmente tanto esplorata e quindi incasellata, che è difficile uscire dal binario della loro storia ufficiale che ormai si sono costruiti e raccontata. Questa è la differenza, secondo me, principale tra le due cose. E per quanto riguarda i bambini, l'unico caso di civile bambino è proprio quello della Bosnia Erzegovina, perché a livello di età anagrafica non poteva partecipare in modo attivo al conflitto. Certamente. Allora, un secondo intermezzo musicale, Dillard e Clark sui 102.2 di RSD, e poi continuiamo con Le guerre non finiscono mai. Nobody ever loved me like she does me. Ooh, she does me. She does me good. And if somebody ever really loved me, she done me, she done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. The first time, and I know it's gonna last. It's a love that lasts a lifetime. It's a love. Don't from the first time that she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really loved me the way she done me. She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. RSD, Dillard e Clark coverizzano i Beatles con Don't Let Me Down. 560993 preceduto dallo 0421 per intervenire in trasmissione, 560994 sempre preceduto dallo 0421 per mandarci un fax, radio@radiosandona.it l'email. Vi ricordo che questa puntata in compagnia del nostro quartetto che ci ha presentato Le guerre non finiscono mai e tutte le nostre precedenti sono ascoltabili o scaricabili da www.bloverbooking.wordpress.com. Lì troverete anche un veloce sunto e una veloce sinossi di Le guerre non finiscono mai e di tutti i libri che presentiamo nel corso di questo programma, nonché tutto quello che ruota intorno alla galassia di Overbooking e più in generale di Radio Sandona. Ora continuiamo con Le guerre non finiscono mai e è il momento di chiedere ai nostri curatori quali sono i temi emersi da questo tipo di discussione di eventi storici legati alla guerra e i temi forti, i temi centrali che il libro ha fatto emergere. I temi più importanti, oltre ovviamente all'orrore, a quello che la guerra porta ed è impossibile che non porti nella vita delle persone, e soprattutto il salvaguardare la memoria di queste persone, far emergere quindi le loro storie soggettive e dar loro voce. Questa memoria però non deve essere trattata solo in maniera monumentale, quindi come se fosse una cosa che una volta recuperata se ne può stare lì e quindi dimenticata ulteriormente. Anzi, deve essere sempre rielaborata e messa in questo caso a confronto con altre memorie, al fine di stimolarle e renderle sempre vive. Questa è la cosa più importante del nostro lavoro, credo. E riguardo invece la metodologia utilizzata, che cosa secondo voi aggiunge questo tipo di metodologia ad un discorso storiografico legato ad esempio alla guerra? Dare appunto la voce a chi voce non ha. In una breve frase. In uno slogan. Sì, in uno slogan. Perché in effetti, cioè, questo tipo di testimonianze sarebbero cose che andrebbero perse nel discorso che ci faceva prima Paola, che comunque morirebbero con la persona che le porta con sé in qualche modo. O con le generazioni che le sono seguite. Potrebbero rimanere dei discorsi semplicemente familiari ed esaurirsi in questo modo. In questo modo invece dovrebbero riuscire a emergere. E per voi invece a livello umano e a livello di gruppo che tipo di esperienza è stata questa? Intanto è stata un'esperienza interessante perché abbiamo potuto partecipare attivamente alle varie fasi di realizzazione di un libro e sicuramente sarà una cosa che ognuno di noi porterà nel suo bagaglio di conoscenze. A livello, diciamo, umano è stata una bellissima esperienza, almeno per quanto mi riguarda. In realtà sono molto pochi i corsi universitari che permettono collaborazioni di questo tipo e effettivamente, almeno per quanto riguarda me, è forse uno dei pochi che ho seguito che ci facevano lavorare, ci hanno permesso di lavorare così in gruppo. Chiaramente si sono sviluppate delle amicizie tra noi quattro, sicuramente, visto che ci siamo visti svariate volte davanti a torte fatte da uno di noi, anzi molto buone e anche molto buone. Davvero le bella fatte Marco, quindi facciamo anche un grande po' di pubblicità. Marco, applausi. Esatto. E abbiamo, sì, insomma, ci sentiamo ancora tuttora adesso che comunque questo lavoro è finito e sì, stiamo iniziando anche a pensare come poter in qualche modo sfruttare le competenze che abbiamo acquisito in questo periodo di lavorazione di questo libro. Appunto, infatti, questo tipo di lavoro avrà uno sviluppo futuro? Avete qualche progetto in cantiere per mandare avanti una ricerca di questo tipo? Sì, è in fase di studio adesso successivamente alla presentazione del libro, anche tramite una professoressa che si chiama Cinzia Crivellari e fa parte della rete degli insegnanti di storia della provincia di Venezia, di creare una sorta di progetto da portare nelle scuole e trasformare poi in laboratori annuali, in maniera tale che la storia orale arrivi anche a conoscenza sia degli studenti delle scuole primarie, quindi elementari, ma anche delle medie, e una sorta di ricerca e raccolta di materiale all'interno anche delle famiglie, quindi tentare di istituire un archivio. Anche perché come forma, in qualche modo, io almeno io da profano la vedo molto più coinvolgente rispetto a chiudersi ad esempio in Marciana, aprirsi dei grossi volumi e stare lì a perdere un pomeriggio, non a perdere ovviamente, però a passare un pomeriggio in compagnia di dei tomi. No, sicuramente è una cosa molto interessante anche. Noi pensiamo di utilizzare le nuove tecnologie e quindi registratori o telecamere o anche canzoni, favole, e, insomma, sì, anche in modo che locale possano essere usati dei media diversi per convogliare in maniera diversa questo tipo di messaggio. Interessantissimo. Complimenti, io vi faccio dei grossi auguri per questo, per il vostro futuro. E tra l'altro volevo anche sapere se questo libro è in qualche modo rintracciabile, questo libro che è edito quest'anno, se non sbaglio, e se è in qualche modo rintracciabile tramite i canali convenzionali, internet piuttosto che... Sì, attualmente il libro non è, diciamo, in vendita nelle librerie, ma per chi fosse interessato eventualmente ad acquistare una copia può contattare direttamente l'associazione De Martino di Venezia. Io vi do appunto il sito internet, è www.smsdemartino.noblogs.org o altrimenti la mail smsdemartino@libero.it. Com'è nata la collaborazione con questo ente? Appunto questa associazione culturale è stata costituita a Venezia nel 1997 e si occupa di raccogliere, catalogare e riproporre comunque criticamente il materiale afferente alla cultura di base, quindi sia canzoni, sia racconti, ma anche storie di vita, con particolare attenzione all'area veneta, quindi ci è sembrato insomma anche interessante poter contattare questa associazione e eventualmente vedere se ci poteva essere una possibilità di collaborazione. Per chi fosse comunque interessato ad approfondire tematiche inerenti alla storia orale, vi posso segnalare il sito dell'Associazione Italiana Storia Orale, www.aiso.it. E si trovano sia appunto notizie relative a convegni o comunque manifestazioni in cui vengono affrontate diversi, diciamo, temi, tematiche legate all'oralità, ma anche segnalazioni di ricerche in corso o comunque di come proprio materialmente occuparsi di storia orale. E se qualcuno volesse un qualche riferimento più al metodo, prima ci citavate alcuni testi che vi hanno ispirato nel condurre questa ricerca. Un approccio molto molto soft alla storia orale, quale potrebbe essere appunto dal punto di vista degli strumenti di ricerca? Beh, noi ci siamo comunque basati sia sulla strada del Davai di Nuto Revelli, la prima edizione è del 1966, però Einaudi ha ripubblicato abbastanza recentemente una versione aggiornata, o altrimenti una raccolta di saggi di uno dei massimi esperti di storia orale in Italia, Alessandro Portelli, si intitola Storie orali, racconti, immaginazione, dialogo, per Donzelli editore. E questa contiene anche degli esempi di storie orali, oppure è solo è più un manuale scientifico in qualche modo di metodo? No, in realtà penso solo il primo dei saggi contenuti nella raccolta si occupa di più di metodo. In realtà poi Portelli cerca di far capire come lui si occupa di storia orale attraverso le sue ricerche. Quindi, per esempio, Portelli si è occupato molto di Terni, di un'acciaieria di Terni, o anche i canti dei neri americani, insomma, è anche un modo per far vedere come la storia orale possa essere utilizzata in svariati ambiti, quindi non solo relativa alla guerra, però relativa anche al lavoro, alla famiglia. Quindi l'uso di questo tipo di metodologia è estensibile anche ad altri ambiti, oltre in sé alla guerra, come ci diceva giustamente Paolo, ma anche ad ambiti sociali, ai più diversi in qualche modo. Io volevo sapere, nei testi a cui voi avete fatto riferimento, da cui voi avete tratto spunto per la metodologia che è adottata, si fa riferimento a come la persona ricorda in qualche modo, a cosa tende a ricordare e come preferisce ricordare, che cosa, ricorda di determinati eventi, magari molto traumatici per lei, a distanza di anni. Sì, beh, questo è sicuramente un aspetto che si incontra facendo delle interviste a persone che soprattutto in età avanzata sentono l'esigenza di condividere queste testimonianze. Il tema della memoria soprattutto è molto dibattuto sia a livello storiografico ma anche a livello di collettività e quindi all'interno della società. Ci sono molti studiosi che ne hanno parlato, uno è Maurice Holbwachs, che ha scritto appunto il libro La memoria collettiva, e in questo sostanzialmente viene affrontato le varie sfaccettature che la memoria può avere. Possono essere a livello familiare e quindi molto contenuto l'ambito di ricerca, o a livello locale o addirittura a livello proprio della società. Infatti poi è una delle difficoltà che si incontra facendo questo tipo di ricerca, riuscire poi a utilizzare e a dare una sorta di credibilità pubblica a questa memoria. Di solito questi aspetti si incontrano quando si fa una ricerca molto dettagliata, quindi nello specifico, come può essere a livello locale. E mi vengono in mente degli esempi su stragi durante la Seconda Guerra Mondiale naziste, come quella delle fosse ardeatine trattate appunto da Portelli, o anche quelle di Sant'Anna di Stazzema, o che sono avvenute appunto nell'Appennino tosco-emiliano. Qui c'è una sorta di divisione all'interno della comunità locale, in cui metà delle persone attribuiscono la colpa di queste stragi ai partigiani e non ai nazisti, come effettivamente i documenti storici lo testimoniano. Questo rende appunto il lavoro di storico molto difficile. E però anche molto interessante, molto gratificante. Sì, molto interessante, perché qui arrivano a comporre appunto il quadro della memoria anche la derivazione sociale, il livello di istruzione e soprattutto i rapporti istituiti all'interno di una singola comunità. Bene, io ringrazio moltissimo Marco, Eleonora e Paola per essere stati con noi, e Tommaso, che speriamo di vedere ben presto qui con noi in trasmissione. Questo era l'Overbooking che vi ha presentato in questa settimana Le guerre non finiscono mai. Un ultimo messaggio prima di salutarci. Vi ricordo che il 21 maggio presso Villa Cazzorzi, il parco di Villa Cazzorzi, avrà luogo l'ultimo appuntamento della manifestazione culturale Vertigini, che vedrà ospite Ascanio Celestini con un suo monologo teatrale, e quindi siete tutti caldamente invitati a partecipare. Io appunto ringrazio ancora i curatori di Le guerre non finiscono mai, vi rimando alla prossima settimana con una nuova puntata di Overbooking, e vi saluto non prima di aver ringraziato l'esimio Daniele Terzariol, che ci dà come sempre una mano in regia. Vi saluto appunto con Cassandra Wilson. Come on, come on, come on, come on, come on. back here, Geneva, come on.